Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici alla parte tecnica, nuovo spazio di ascolto, riascolto di alcuni eventi e incontri che si sono svolti nel territorio della Diocesi di Padova in queste ultime settimane, giorni o in qualche caso mesi. Siamo nell'ambito del corso di cultura, il ciclo di conferenze 2017 promosso dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum, la medicina, arte, scienza e pratica etica. Il primo incontro che vi abbiamo proposto la scorsa settimana ha proposto la relazione del Ragioniere Generale dello Stato Daniele Franco sul tema costo della salute, allocazione delle risorse. Questa sera vi proponiamo l'intervento del professor Carlo Casalone sul tema etica del nascere e del morire. Il professor Casalone, sacerdote, è nato alla Spezia nel 1956, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia a Milano nell'81, con la specializzazione in cardiologia nell'84, poi è entrato tra i gesuiti. Si è diplomato in filosofia a Napoli, con baccalaureato in teologia a Bruxelles, nell'88 dottorato in teologia morale alla Gregoriana di Roma. Nel 99 ha studiato Weston negli Stati Uniti. Dal 1 ottobre 2014 è docente di teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, specializzato in ambiti bioetici. E allora sentiamo il suo intervento dello scorso 6 febbraio in aula Morgagni del Policlinico Universitario di Padova sul tema etica del nascere e del morire. I giorni della Chiesa. Allora, il percorso che io vi proporrei stasera è un percorso che vuole, da un certo punto di vista, abbracciare una materia ampia, e non è certo un'impresa facile mettere insieme la vita umana dalla nascita alla morte. Quindi c'è una vastità delle tematiche anche se rappresentano gli estremi opposti della vita, l'ingresso nell'esistenza e l'uscita dall'esistenza, diciamo così, però hanno delle caratteristiche comuni, hanno dei tratti comuni. Allora, quindi il primo punto sarà vedere un po' in che senso possiamo dire che ci sono degli aspetti comuni. E scopriremo che uno degli elementi che accomunano questi due passaggi importanti della vita è quello dell'incontro, scontro, confronto, col limite, col confine. E qua entra la medicina, nel senso che, essendo la nascita e la morte due fatti culturalmente determinati, c'è una storia della morte, c'è una storia della nascita, nel tempo e nelle culture si nasce e si muore in modo diverso. Noi, per esempio, moriamo in una società altamente medicalizzata. Molte delle morti avvengono in ospedale. Nel Medioevo non era così. Nel Medioevo si dormiva, ci si addormentava definitivamente, cioè si moriva a casa. La morte domestica si chiamava. Invece adesso la morte è uscita dal circuito della vita ordinaria e viene consegnata in ambienti e a professionisti specializzati, per la gran parte, gli ospedali. È uno dei modi di gestire la morte. Quindi c'è una storia della morte che ha a che fare con il momento specifico culturale in cui ci troviamo. E quindi questo tema del confine e del limite oggi viene giocato con una notevole incisività da parte del sapere e della pratica medica. E vedremo come la medicina tocca, la biomedicina contemporanea tocca questo aspetto del limite incontrato all'inizio e alla fine. Per trarne una logica che spinge verso quella mentalità che è anche stata anticipata per accenni dal padre Sergio, una mentalità nei confronti della vita, nei confronti del limite, che tende a farci percepire la vita in un modo riduttivo e parziale, la vita e quindi la nascita e la morte. E si tratta quindi, ed è il passo conclusivo che cercheremo di fare stasera, si tratta quindi di vedere se ci è possibile ricorrere o attingere o accedere a qualche aspetto della nostra esperienza vissuta, di cui progressivamente prendiamo coscienza, che ci permette di comprendere e interpretare la vita in un modo più ampio e meno riduttivo. Quindi, cosa accomuna la vita e la morte? Il limite, l'interpretazione del limite sotto la pressione della scienza biomedica, dell'arte medica, un certo modo di spingere verso una interpretazione della vita che è interessante ma parziale e che va quindi integrata, e cercheremo di vedere come interpretarla in un orizzonte più vasto. Quindi partiamo un po' da questo aspetto del cosa accomuna la nascita e la morte, e provo a dirlo in questo modo. Il tema del passaggio, quindi il passaggio che caratterizza l'ingresso nel mondo, uno entra nell'esistenza, nel momento della nascita, e questo è abbastanza chiaro. Uno è il passaggio d'ingresso e l'altro è il passaggio di uscita dalla scena del mondo, della vita nel tempo. Quindi c'è questo elemento di transizione sotto forma di ingresso, sotto forma di uscita. E questo è un tratto comune. Ma l'altro elemento comune, provo a dirlo in questo modo, entrambe hanno a che fare con la sessualità. Lo dico in questo modo, che è un modo particolare di parlare della corporeità. Perché? Beh, per l'inizio è abbastanza chiaro. La generazione avviene attraverso l'incontro di due persone, o mi direbbero i medici che praticano la procreatica, attraverso l'incontro di due gameti, almeno quelli, se non ci sono le persone, almeno ci saranno i gameti, uno maschile e uno femminile, quindi differenti fra di loro, e quindi limitati. Differenti vuol dire limitati. La diversità indica una parzialità che necessariamente comporta un limite. Attraverso questo incontro avviene la fecondazione e l'avvio di un nuovo essere umano che prima non c'era, prima non esisteva. E quindi è dalla relazione nella differenza, e quindi nel limite, che avviene la generazione della vita. Ma meno chiaro è in che senso la fine ha a che fare con la sessualità. E allora vi vorrei fare un piccolo excursus rapidissimo in termini piuttosto biologici. Quindi già a partire dalla biologia, se noi guardiamo gli organismi monocellulari, unicellulari, propriamente non muoiono, si dividono e continuano a vivere nella discendenza. La questione della morte interviene negli organismi multicellulari, in cui cioè l'individuo muore e la vita continua nella specie. E quindi l'organismo pluricellulare si riproduce e poi giunge a termine del suo tempo vitale e muore. La continuità nel tempo avviene attraverso la specie, che sopravvive all'individuo. Ora, le specie stesse evolvono solo se in un qualche modo rischiano il cambiamento. L'evoluzione mescola il patrimonio genetico di chi precede nella generazione, e quindi ogni singolo organismo non preserva la propria identità se non rischiandola in un contesto che gli permette o no di vivere, perché la vita avviene attraverso un continuo movimento di distruzione e di costruzione, con uno scambio di materia, di energia, di elementi vitali che sono mutuati dall'ambiente, e quindi attraverso una dipendenza dal contesto in cui gli organismi viventi si inseriscono. E quindi c'è questa mescolarsi, come già diceva Claude Bernard, il famoso fisiologo francese, c'è un continuo intreccio di morte e di vita, di costruzione e di distruzione, che è proprio dell'essere vivente. La vita e la morte si intrecciano nel corso del tempo vitale degli organismi biologici. E quindi la sessualità ha a che fare con l'essere mortali. Già lo dice la parola in un certo senso, c'è una suggestiva etimologia che dice che sessualità viene da secare, tagliare, sectum, tagliato, sexum, sectum, tagliato fuori dall'esperienza dell'altro. Una differenza irriducibile che dice un limite insormontabile e che è strettamente connesso, quindi abbiamo visto, con la generazione della vita, ma anche col fatto che si comincia a riprodursi in modo sessuato quando l'individuo è confrontato con la morte, perché l'organismo unicellulare che non si riproduce in modo sessuato continua a vivere in un certo senso nelle cellule della propria progenie. Ecco, quindi abbiamo visto questo tema del passaggio e questo tema del limite che abbiamo evocato attraverso il tema della sessualità che ha a che fare con la nostra corporeità, che tornerà in campo tra non molto. Ora vediamo qualche esempio di come viene interpretato il limite all'inizio e alla fine della vita. Questo limite è culturalmente interpretato e lo si incontra e lo si trasforma appunto a seconda della cultura e degli strumenti di intervento nella realtà che gli umani elaborano con la loro conoscenza e col loro intelletto, con la loro genialità. E cosa scopriremo? Scopriremo che questo limite oggi è sempre meno chiaro, è sempre più confuso. Alcuni parlano di diluizione dei confini della vita, all'inizio e alla fine. È un confine sempre più poroso. È un confine sempre più poroso. Vi faccio qualche esempio. Ne traggo qualcuno dall'inizio della vita e qualcuno poi dalle fasi successive della vita. È sempre più difficile identificare la soglia della personalizzazione, quando emerge la persona. Questo dibattito infinito sull'embrione. Non siamo d'accordo nella nostra società, date le diverse modalità di interpretare la materia vivente e quali le categorie filosofiche che ci servono per fare questo esercizio. Qualche anno fa si parlava di preembrione, cioè di qualcosa che era prima dell'embrione. Nel rapporto Warnock in Inghilterra si è cominciato a parlare di questo con l'intento di dire fino a che preembrione si può fare la ricerca, dopo no, 14 giorni. Poi si è cominciato a parlare dell'ootide, cioè di quella entità biologica che nasce quando i due gameti si incontrano, ma ancora non si è formato lo zigote, cioè il primo organismo unicellulare del sviluppo embrionario. Perché? Perché perché questo avvenga ci vuole un certo numero di ore, diciamo una trentina. E quindi è dentro questo ambito che succede qualcosa che fa passare una soglia, ma altri hanno detto no, viene ancora dopo, viene quando non è più possibile la scissione gemellare. Altri hanno detto ancora dopo, quando cioè appare il substrato biologico di quelle funzioni cognitive che sono proprie dell'essere umano e quindi l'abbozzo del sistema nervoso centrale, settimane dopo. E quindi c'è un dibattito, si fa fatica a identificare un momento di confine che delimiti con chiarezza la soglia del passaggio da un organismo biologico così genericamente inteso a una persona umana, e quindi si fa fatica a stabilire questo limite. Ma vi faccio un altro esempio all'inizio della vita, che è quello della gravidanza. Allora, quando io ho studiato medicina, millennio scorso, per i giovani in balconata, il millennio scorso, evidentemente la gravidanza era uno stato abbastanza chiaro. Era considerato come lo stato fisiologico della donna incinta che inizia con la fecondazione e termina con il parto, fine della trasmissione. Nella metà degli anni Ottanta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli anni 85 circa, ha chiesto a una federazione internazionale di ginecologia di aggiornare la definizione di gravidanza. E con quale definizione sono venuti fuori? Con una definizione che fissa l'inizio della gravidanza nel momento dell'impianto nella parete uterina. Perché? Perché si creava una situazione difficile. Se siamo in grado di fare la fecondazione in vitro e l'embrione si sviluppa per alcuni giorni, sarà sempre di più questo tempo per cui si svilupperà in vitro, no? Ci avviamo verso l'ectogenesi, cioè la gravidanza extracorporea. Il tempo tra la provetta e l'incubatrice si riduce sempre di più. Questo è anche un altro confine che è poroso, diciamo così. Va bene, comunque era difficile dire a una signora che faceva la fecondazione in vitro extracorporea, signora, la sua gravidanza è iniziata, ma l'embrione è ancora nella provetta. Difficile. Allora hanno elaborato una definizione operativa, una definizione operativa che, quando l'impianto riesce, consente di definire la gravidanza a partire da quel momento. Ora, questa è una definizione operativa, ma già qui vediamo qualcosa di interessante, che non possiamo far pesare significato antropologico su chi è l'embrione, sull'identità dell'embrione, sulla tutela che dobbiamo attribuire all'embrione, solo a partire da un linguaggio che è un linguaggio che serve per controllare e per operare nella realtà e in questo caso particolare sulla materia vivente. Quindi non possiamo utilizzare una terminologia, un lessico che ha un obiettivo operativo per dargli uno statuto, diciamo così, in termini un po' più filosofici, ontologico. Bisogna ammettere che il chi è l'embrione e l'inizio della gravidanza sono due momenti separati, distinti, appunto il limite si confonde. E quindi inizia in tempi differenti, è possibile che inizi in tempi differenti. Quindi qualche esempio dall'inizio, qualche esempio dalla fine. Poi naturalmente poi nelle vostre domande arricchiremo e preciseremo quello che vi sarà più, sembrerà più interessante. La fine, anche qui, diventa sempre più difficile, mentre prima era chiaro nella semeiotica medica che quando lo specchietto non si appannava, lo specchietto messo davanti alla bocca del paziente non si appannava, il paziente era morto, cioè non respirava. Verifica immediata. Era il segno clinico per eccellenza. Adesso è sempre più difficile con la rianimazione e occorre fare un esame neurologico dei riflessi e una valutazione elettroencefalografica per un certo periodo, un tempo che faccia vedere come l'attività cerebrale sia sospesa. E quindi ci vuole un tempo. Un tempo che permette a posteriori di stabilire quando è avvenuta la morte e questo diventa sempre più, rilevante per la questione dei trapianti. Ma ancora uno stato di sospensione che confonde un po' i limiti è quello dei cosiddetti stati vegetativi, in cui cioè avviene una situazione di perdita della coscienza che però non è incompatibile con il mantenimento di un certo livello di vigilanza, cioè una specie di ritmo sonno-veglia che dà dei segni di sé, una qualche attività cerebrale del tronco encefalico, mentre la parte degli emisferi e la parte neocorticale è non più funzionale, inattiva, diciamo così. Ma anche qui sapete che mentre prima questa è una definizione che avveniva prima della capacità che abbiamo adesso di valutare attraverso le immagini l'attività elettrica del cervello, si vede che questa definizione così netta non è frequente. Ci sono diverse situazioni in cui ci sono stati di minima consapevolezza. Ci sono degli stati in cui c'è una qualche attività cerebrale che tra l'altro può anche darci dei segnali su quello che è la prognosi della persona, per cui ci sono degli stati vegetativi persistenti che durano un certo periodo, che poi a un certo punto dopo n mesi vengono definiti stati vegetativi permanenti, ma poi si è visto che ci sono degli stati di minima coscienza che apparivano come stati vegetativi, ma che in realtà non lo sono, perché c'è una certa attività cerebrale che corrisponde a una qualche attività della coscienza, anche se i segni attraverso questa diagnosi non sono di immediata lettura. E quindi tutti questi stati si confondono un po' e passano in modo dinamico gli uni con gli altri, tant'è vero che alcuni dicono non bisogna più parlare di stati, perché non sono stati, sono movimenti, sono dinamiche, e bisogna usare dei termini più descrittivi. Quindi vedete come si fa fatica a parlare di nascita e di morte come eventi puntuali. E si parla sempre di più con l'infinito, il nascere e il morire, come processi che hanno una certa durata e il cui limite è difficile da determinare ed è sempre meno facilmente identificabile. Ma questa non è solo, questo è solo uno degli aspetti della porosità del confine. Ci sono anche altri confini che vengono, diciamo così, minacciati, resi più fluidi, resi più sfumati dalla medicina contemporanea. Per esempio la medicina rigenerativa riguarda al tempo. Si pensava, anche qua quando io studiavo, che una volta che la cellula si è differenziata nei tessuti specializzati, rimane quella che è, non torna indietro. Mentre con le cellule staminali abbiamo visto che è possibile far recuperare al genoma della cellula la capacità di esprimere molti di quei geni che si ritenevano silenziati in modo irreversibile nei decenni scorsi. E quindi c'è una specie di inversione della freccia del tempo. Le cellule differenziate tornano ad acquisire delle capacità di totipotenzialità, di possibilità di svilupparsi e di dare origine a cellule di tessuti differenti, mentre prima si pensava che con la specializzazione funzionale la differenziazione fosse irreversibile. E quindi è possibile immaginare che questo possa essere fatto anche in vivo, cioè mandando nelle tessuti dei fattori che ci sono nella citoplasma dell'ovocita, che sono in grado di sdifferenziare le cellule, è possibile far acquisire a queste cellule la loro potenzialità staminale. E quindi il confine del tempo diventa in qualche modo reversibile. E un altro confine molto importante, che adesso vedo quello dei trapianti, ma i trapianti tra le specie, la possibilità di trapiantare degli organi o dei geni, negli organismi transgenici, che arrivano da specie differenti. Quindi il confine tra le specie, che prima era molto delimitato dalle dinamiche naturali, adesso può essere superato. Ma come anche il confine tra naturale e artificiale. Sempre più potremo vivere con delle protesi che ingegnerizzano i nostri tessuti. Il pacemaker è il sistema più semplice, ma gli impianti di elettrodi nel Parkinson è un altro sistema. La possibilità di protesi artificiali che si muovono attraverso non solo una forza impressa loro, ma che sono in grado di interfacciarsi col tessuto nervoso tale per cui è possibile muoverle attraverso l'attività neuronale. E quindi questa commistione di tessuti biologici e di tessuti, chiamiamoli così, elettronici, parlavamo prima dell'elettrotecnica, qua siamo di altri tipi di commistioni, quel famoso cyborg, l'organismo, metà strada cibernetico e organismo. Questa possibilità di far interagire la materia vivente con la materia che è in grado di trasportare e trasmettere informazioni. Ora, con tutti i problemi che questo comporta, va bene. Ora, cosa succede? Ecco, ho fatto alcuni esempi, ce ne sarebbero anche altri. Ho fatto questi esempi scegliendoli un po' con questo criterio. Sono cose che ha determinato la nostra attività scientifico-tecnologica. Perché uno poteva parlare anche delle demenze, per esempio, no? In cui l'identità si sfuma e non si sa più che rapporto ci sia tra l'organismo e la persona che ha perso la consapevolezza di sé e ha perso la memoria e quindi non è più in grado di elaborare un'identità narrativa. Si poteva anche parlare di quello come esempio. Ma è più interessante l'esempio dello stato vegetativo. Perché? Perché senza medicina lo stato vegetativo non ci sarebbe. Perché è frutto di una rianimazione in una condizione traumatica o di anossia cerebrale che, se non ci fosse la rianimazione che ti porta fuori dal momento di emergenza, non si produrrebbe. Quindi è frutto, è iatrogeno, direbbero quelli, direbbe Ivan Illich, è iatrogeno, cioè è frutto di un intervento medico, di una rianimazione che al momento devi fare perché non sai come va a finire, ma una volta che l'hai fatta ti trovi in questa, quindi è frutto del progresso della medicina. Non può dire anche la demenza perché si vive di più, sì, però questo in modo più esplicito e più diretto. Ora, di tutti questi esempi, ce ne sarebbero anche altri, come dico, cos'è che è interessante rilevare? È interessante rilevare che inducono un certo modo di percepire e di interpretare la vita. Perché? Perché la vita diventa qualcosa su cui è possibile esercitare un controllo, che è possibile far interagire con dei materiali che abbiamo costruito noi. Qualcuno chiama questo l'infosfera. Prima la scienza era descrittiva, poi ci sono le scienze prescrittive, come per esempio il diritto, descrittiva l'astronomia. Galileo descriveva col cannocchiale, non spostava niente, guardava. Poi c'è le scienze prescrittive, il diritto. E poi adesso, sempre di più, siamo diventati capaci di inscrivere le informazioni nella realtà, anche nella realtà biologica, anche attraverso modulazione e lo spostamento, l'editing dei geni. Siamo in grado di introdurre dell'informazione, e questo alcuni chiamano infosfera. Ma per dire che questa situazione cosa fa? Ci fa sempre più percepire la vita come qualcosa che è a disposizione della nostra intervento, qualcosa che può essere sottoposta ad una logica di efficienza e di utilità, qualcosa che può essere studiato come un oggetto scientifico e controllato come una produzione tecnologica. E quindi da questa angolatura si sta sviluppando una sensibilità ancor prima che una teoria ben tematizzata, è proprio un'attitudine interiore, una percezione spontanea di possibilità di intervenire sulla materia vivente e sulla vita, nel senso che abbiamo detto, per cui la vita diventa qualcosa di funzionale al raggiungimento di obiettivi che stanno fuori della vita stessa, cioè diventa uno strumento per realizzare il benessere. Questo, tra l'altro, carica la medicina e soprattutto i medici di attese difficilissime. Il paziente diventa sempre più esigente, perché appunto la medicina è sempre più potente, mentre la medicina, se entra in questa logica, si trova davanti a delle grosse frustrazioni. Quindi c'è un approccio un po' oggettivante che fa della vita una specie di oggetto scientifico e una specie di produzione dell'agire umano, che ci induce a sentire, percepire che della vita si può disporre come appunto si dispone di un artefatto tecnologico. E in questa linea ci sono diversi modi di ragionare, alcuni più utilitaristici, cioè sottoporre la vita a un calcolo costi e benefici e in base alle preferenze più o meno aggregate che realizza e rispetto alle benessere che è in grado di produrre o di non produrre o di sottrarre, allora si utilizza questo come criterio di azione e di disposizione della vita. E quindi la vita viene immediatamente percepita non come qualcosa che ha un valore in sé, ma siccome è a disposizione, è disponibile all'agire umano così sofisticato, così complesso e così capace anche di configurare la nostra prospettiva sulla vita, ce lo fa considerare appunto come un oggetto suscettibile di essere trasformato e di cui disporre in ordine a scopi che sono riguardanti il benessere, e quindi se questo benessere non si realizza, perché non posso disporne, per esempio, ponendo termine alla mia vita. Il succo è che in questa prospettiva la vita non ha un valore intrinseco, ma è un valore relativo alla valutazione soggettiva che uno ne fa in ordine agli scopi che vuole raggiungere. Se non serve più allo scopo, una visione strumentale della vita. Come diventa materia per una ragione strumentale, la vita stessa diventa uno strumento per realizzare qualcosa che, se non si realizza, può essere dismesso, può essere eliminato, può essere soppresso. Ecco, questo mi sembra un po' il comune denominatore di un percorso che ho cercato di descrivervi brevemente, e che si basa fondamentalmente su un modo di concepire l'azione come una prestazione, e qua c'è un primo problema, perché la nostra vita non è suscettibile di, cioè la nostra azione non è solo da valutarsi in base ai risultati che ottiene. Cioè i risultati valgono non soltanto per gli effetti materiali che producono, ma hanno valore in base anche alle disposizioni sottostanti e che motivano l'agire e alle intenzioni che le sostengono. Detto in altre parole, le nostre azioni e anche i beni che noi produciamo hanno un valore anche, diciamo così, simbolico. Se io do un mazzo di fiori a un'altra persona, questo mazzo di fiori non può essere solo valutato in termini botanici o solo in termini economici, ma vale per il sentimento e la capacità di stabilire relazione che questo mazzo di fiori comporta. E quindi a seconda di come lo guardo ha delle valenze, ci vedo cose diverse. Una capra ci vede una buona colazione. Un fiorista ci vede un guadagno da mettersi in tasca. Un botanico ci vede un insieme di fiori da studiare con le loro differenze. Una innamorata ci vede una promessa di vita felice. Quindi lo stesso oggetto, a seconda di come lo guardo, ha una valenza diversa, e il nostro agire ha una rilevanza simbolica, non è solo un risultato materiale. E quindi non si può dire che quando non riesco più a avere una vita che non produce risultati, per cui non serve più, diventi una vita inutile immediatamente. Questa cosa, diciamo così, riduce e non tiene conto di qualcosa che è qualificante dell'agire umano. Ecco. E il secondo, quindi, l'azione, un certo modo di concepire l'azione, un po' descritto in sintesi. E poi c'è un altro punto, cioè questo modo di concepire la vita come qualcosa che è un oggetto che posso usare come strumento per realizzare qualcos'altro, mettiamo il mio benessere, il mio progetto, la mia riuscita. Solo questo, che va bene, ma solo questo è troppo poco. Non tiene conto di quello che la vita è realmente nel modo in cui noi la sperimentiamo. Ecco, allora vorrei fermarmi per concludere su questo punto. Se noi riflettiamo un attimo sull'esperienza che della vita facciamo, ci rendiamo conto che noi ci troviamo in vita. Noi diventiamo consapevoli del fatto di essere viventi in questo corpo, in questo tempo, in questo spazio, grazie al corpo che è inserito nel tempo e nello spazio che io non ho scelto, che mi è assegnato, che è frutto della scelta di qualcun altro, progressivamente, e scopro che la mia consapevolezza di essere vivente in questo corpo non è separabile dal fatto che insieme alla vita io ho ricevuto una esperienza di senso della vita che mi è stata mediata da quelli che mi hanno permesso di essere al mondo e di continuare ad essere al mondo, perché uno può essere anche venuto al mondo per accidens, per errore. mediamente no, ma può anche capitare. E quindi il fatto che questo possa capitare potrebbe invalidare tutto il ragionamento. Ma invece non è tanto così, perché il fatto che uno sia ancora al mondo vuol dire che qualcuno si è preso cura di lui. Vuol dire che qualcuno che viene prima di lui si è preso cura di lui e si è fatto responsabile di lui o di lei, in modo tale che insieme, diciamo così, al latte materno ha potuto anche assumere un orientamento di senso che è basato sull'affidarsi all'altro. Perché se il bambino non si fida, uno può dire ma è un riflesso biologico della specie. Sì e no, un po' sì, ma non solo. Quindi la vita può stare svilupparsi solo sulla base di un affidarsi, se no non si sviluppa. E questo è il senso che rende la vita degna di essere vissuta, che è in grado di mobilitare la volontà, perché uno scopre che solo affidandosi a questo senso che gli viene mediato e che viene dalle relazioni che sono già stabilite prima di lui, che lo hanno messo al mondo in tutti i sensi, hanno dato alla luce, ma anche al mondo di senso, di significato, che la vita contemporaneamente biologica e di significato gli permette di sperimentare. Quindi c'è un momento originariamente passivo nella vita in cui io mi trovo già coinvolto fin dall'inizio indipendentemente da quello che io voglio, anche se poi mi abilita a esercitare la mia volontà, che mi media anche un senso, che è quello che mi tiene in vita, che è una promessa che io non posso verificare come valida se non mi affido e non ne faccio esperienza. Quindi io devo fidarmi perché quella parola che mi è annunciata e che mi promette un significato di vita compiuta non può realizzarsi se io non la pratico e non esercito e mi muovo nella linea in cui la promessa mi ha orientato. Faccio un esempio per essere meno astratto. Quando uno studente universitario sceglie la facoltà di cui parlavamo poco prima della nostra conferenza, sceglie la facoltà, perché lo fa? Perché ha incontrato qualcuno che gli ha fatto intuire che quel lavoro, quel mestiere che può imparare a fare attraverso lo studio che intraprende, gli permette di realizzare i suoi obiettivi, al limite di realizzare la sua vita. Ma lo sa? No, non lo sa. Come fa a sapere se questa promessa, che la testimonianza di uno, un professore illuminato, un padre gesuita che ha lavorato per anni nell'educazione, un compagno di scuola qualche anno più avanti di lui, il fratello maggiore, la mamma, il papà, non lo so, lo zio, non lo so. Come fa a fare esperienza in prima persona che questa promessa che confusamente ha intuito e che l'altro gli annuncia è valida? Può solo affidarsi a quella testimonianza e praticarla in prima persona. E solo facendo questo può fare esperienza che quello che gli è stato annunciato è vero. Questa è la dinamica della vita, cioè che è dentro, nel momento iniziale della vita, nel momento finale che trasforma un fatto biologico inaggirabile, fatto biologico inaggirabile, in un'offerta globale finale della propria esistenza, la morte, ma anche le scelte della vita, l'esercizio della libertà, l'esercizio della volontà, può avvenire solo con questa dinamica che include costitutivamente la fiducia è la promessa che qualcuno mi annuncia e che man mano che cresco mi viene fatta presente e che io posso in prima persona sperimentare se do credito, e do credito. E quindi è un'offerta di senso che mi viene offerta e che di cui pian piano io prendo consapevolezza. E cosa scopro allora? Che la vita non è qualcosa che mi è estranea, ma la vita è qualcosa che mi è costitutivamente presente, che fa parte di me, che sono io, che dipende dalle relazioni che vengono prima di me e che queste relazioni mi rendono responsabile della mia vita, perché la mia vita appunto è segnata da questo elemento originario di passività che, con un'ulteriore interpretazione, se qualcuno vuole, può essere interpretata come dono ricevuto e quindi elemento che mette in circolazione il dono e mi responsabilizza a mia volta a essere dono attraverso quello che farò, attraverso quello che appunto le promesse che mi attirano di più mi chiameranno a fare. Ma quello che è importante, che voglio sottolineare, è che non posso staccare la mia persona dall'esperienza della vita che è costitutivamente vita biologica e vita di senso, perché le due cose vengono insieme. Latte materno e l'orizzonte simbolico in cui si scambia il rapporto tra la madre e il figlio, la figlia, i genitori e i figli, vanno insieme, a partire dal linguaggio, ma adesso... Quindi il fatto di avere un'origine esterna a sé e sottratta al proprio controllo oggi è estremamente difficile da percepire come mentalità corrente. Non a caso si parla di società senza padri, di evaporazione del padre, Massimo Recalcati. Perché? Perché riconoscere il padre vuol dire riconoscere un'origine che viene prima di me. Quindi io la nego, mi ribello, voglio essere origine a me stesso. E diciamo che l'impresa medica, in quanto impresa scientifico-tecnologica che tocca questi aspetti, ma ce ne sarebbero tanti altri, rischia di andare in questa linea. E per questo mi fa piacere concludere con una citazione di Papa Francesco, che parlando proprio della casa comune, nella Laudato Si, dice: c'è un paradigma tecnocratico imperante. Allora, che ci sia un paradigma tecnocratico va benissimo, che ci sia la scienza, che ci sia la tecnologia va benissimo, l'uomo non può vivere senza scienza e senza tecnologia, benissimo. Il punto qual è? Il punto è, il problema nasce quando questo paradigma diventa l'unico, diventa, diciamo così, l'unico punto di riferimento per il conoscere, per il comprendere la realtà e per l'agire, l'unico modello di azione. Modello di azione, diciamo così, basata sulla prestazione e non sul simbolo o sulla relazione, per dirla come abbiamo detto prima. Per cui Papa Francesco dice che il metodo, la finalità della scienza e della tecnologia non bastano, sono importanti, vanno benissimo, tra l'altro non si può salvare in nessun modo la casa comune se non si fa più ricerca e non si studia di più il modo con cui l'energia è accessibile nel mondo, nel cosmo, quindi importantissimo, ma il problema diventa quando questo si fa criterio esclusivo di conoscenza e di azione. E per cui occorre un'operazione culturale che favorisca uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che aprano l'orizzonte oltre quello che la scienza e la tecnica ci permettono di vedere e di operare. Grazie. Spot. Rimani connesso con Blu Radio Veneto. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Le diocesi da sfogliare. Le notizie, i titoli, le inchieste dai settimanali diocesani del Veneto. Il sabato alle 8:15, la domenica alle 9. I giorni della Chiesa. Era il professor Carlo Casalone, sacerdote gesuita, laureato in medicina, anche professore di teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Il professor Casalone è intervenuto nell'ambito del corso di cultura 2017 promosso dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum sul tema la medicina, arte, scienza e pratica etica. Il suo tema, etica del nascere e del morire. La prossima settimana spazio invece alla la voce del professor Alessandro Nanni Costa sul tema del trapianto d'organi. Ringrazio Telechiara che ci ha concesso l'utilizzo della registrazione audio di questa serata e di darci la parte tecnica per Blu Radio Veneto, Mirko Cavallini in studio e redazione. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.